Quanta bella gente pettinata ed altruista cammina con lo sguardo incollato alla vetrina. Quanta bella gente poi ti guarda incuriosita, oppure gira al largo forse alquanto innervosita. Quanta bella gente vedi passeggiare piano. Quanta brava gente sempre in via Sparano. Sento uno normale, non ho niente di speciale, e se un dito mi fa male, vado tosto all'ospedale. Riesco sempre a controllare l'espressione del mio viso, sotto la mia barba, solo l'ombra di un sorriso. Nato sotto il segno della Vergine, vivo con la mia bilancia. Anche la più piccola emozione mi fa doler la pancia. Vivo come vivo, col permesso di soggiorno. Come mangio, bevo come bevo e poi non dormo. Vivo come vivo anche se mi sento morto. Ogni tanto resto immobile nei miei pensieri assorto. Vivo come vivo con problemi di intestino, lasciando tutto quanto nelle mani del destino. Che ritorna dall'arena con la sciarpa colorata ed in mano la bandiera. Quanta bella gente che sorride dallo schermo mentre chiede un contributo per la vita dell'infermo. Non so cosa voglio, alla fine vorrei essere un perdente per mandare alla malora tutta quella brava gente. Vivo come vivo col permesso di soggiorno. Mangio come mangio, come bevo e poi non dormo. Vivo come vivo anche se mi sento morto. Ogni tanto resto immobile nei miei pensieri assorto. Vivo come vivo con problemi di intestino, lasciando tutto quanto nelle mani del destino. Repetition.